in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che oggi hanno titoli abbastanza diversi uno dall'altro e anche le fotonotizie, per le fotonotizie sono state fatte scelte diverse. Cominciamo però dal Sole 24 Ore, perché nella prossima settimana si comincerà veramente a parlare della legge di stabilità, che poi ci interessa a tutti, è il, diciamo, il budget dello Stato, quanti soldi avrà bisogno lo Stato nel prossimo anno e soprattutto dove li prenderà. E allora il titolo del Sole 24 Ore: ridotti i tagli agli sgravi, ci sarà una spending, cioè una spending review più leggera. Sulla questione delle pensioni, il Premier Matteo Renzi ieri ha riaperto la possibilità di nuove regole per renderla più flessibile, appunto, alcune norme della grande riforma sulle pensioni, però gli è subito fatto eco il Ministero del Tesoro spingendo alla cautela, perché naturalmente ogni piccola modifica alla riforma delle pensioni significa grandi movimenti contabili e quindi bisogna poi trovare le coperture quando si vogliono modificare dei provvedimenti così importanti dal punto di vista economico. Per quanto riguarda invece le tasse, da domani, spiega il Sole 24 Ore, all'esame del fisco i dati delle banche sui movimenti con l'estero, il faro del fisco sui conti correnti. Nel DEF, tra l'altro, si metterà sicuramente anche una voce di recupero di denaro da parte grazie all'evasione fiscale, e intanto è stato reso noto, appunto, dall'Agenzia delle Entrate che nel 2015 è previsto il recupero di 2,3 miliardi in più per la lotta all'evasione. Vi segnalo, come ogni domenica sul Sole 24 Ore, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che si concentra su un titolo quotato questa settimana, la D'Amico, che è un gruppo che si occupa di international shipping. Quindi il gruppo D'Amico amplia la flotta e sfrutta il rialzo dei noli. L'analisi completa la trovate a pagina 18. E poi, a proposito di analisi, come sempre la domenica, l'intervento dell'arcivescovo di Chieti Vasto, Bruno Forte, che questa settimana si occupa della visita di Papa Francesco a Cuba, e poi sappiamo che da Cuba il Papa si sposterà negli Stati Uniti, e quindi il titolo dell'analisi di Bruno Forte: il ponte di Francesco. Il Corriere della Sera ha una fotonotizia che è proprio quella di Papa Francesco all'incontro, la stretta di mano con Raul Castro all'arrivo a Cuba, il saluto del Papa a Cuba e Castro: apritevi al mondo. E poi però il vero titolo subito sotto la fotonotizia riguarda l'evasione fiscale. Evasori, ultima chiamata, il riferimento è a un'intervista che il Corriere della Sera ha alla Presidente dell'Agenzia delle Entrate, Rossana Orlandi, che spiega quali sono le misure e anche, appunto, come si è arrivati a questa previsione di ottenere 2,3 miliardi dalla lotta all'evasione fiscale. Vi segnalo poi l'analisi di Dario Di Vico sulla questione dei negozi aperti alla domenica o durante le festività. Sapete che c'era stata una legge che aveva di fatto liberalizzato tutti gli orari, rendendo l'Italia più simile a tanti altri paesi dove, appunto, si può tenere i negozi aperti di domenica o fare degli orari prolungati. Ora si stanno un po' ridiscutendo queste regole. Il commento di Dario Di Vico è: una scommessa che oggi non va persa, cioè l'invito è a non fare passi indietro su questa liberalizzazione degli orari dei negozi. Il Messaggero sceglie di aprire proprio sulla questione della flessibilità sulle pensioni, per queste dichiarazioni di ieri del Premier, e proprio spiega: il governo riapre il dossier, uscite anticipate con penalizzazione per le donne e senza lavoro. Per quanto riguarda la manovra, cioè appunto la legge di stabilità, se anche qui sono ancora indiscrezioni, ci saranno meno tasse sulla casa. Sapete che Renzi ha promesso l'abolizione dell'IMU sulla prima casa. La pressione fiscale dovrebbe scendere, queste sono le previsioni, al 42,6% nel 2016. La fotonotizia però del Messaggero è dedicata alla Grecia, perché oggi, 20 settembre, si vota in Grecia. Sapete, le elezioni anticipate che erano state si sono rese necessarie dopo le dimissioni un mese e mezzo fa di Alexis Tsipras, il vincitore con il suo partito delle elezioni precedenti, nonché poi premier a quell'epoca, dopo aver siglato l'accordo con l'Europa e in parte anche con il Fondo Monetario, e averlo fatto, diciamo così, digerire riferire al suo Parlamento, Tsipras poi si dimise perché la motivazione fu: adesso però vorrei un mandato più forte dal Parlamento. Allora le previsioni: Grecia al voto, Tsipras per il bis, ma il commento è che è diventato Alexis Troikas. Troikas naturalmente dal soprannome della Troika, che è formata, sarebbero le tre istituzioni: Commissione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale, quelle con cui all'inizio e poi comunque alla fine in qualche modo, anche se l'accordo nei mesi è stato molto modificato, appunto la Grecia si accordò per una ristrutturazione del debito e per un ulteriore prestito per poter far ripartire l'economia, scongiurando l'ipotesi del fallimento del paese. La Repubblica titola in realtà su un'intervista che ha solo Repubblica al ministro dell'economia Padoan, che però così implicitamente, ma neanche tanto implicitamente, nel senso che non è un botta e risposta diretto, ma un botta e risposta così tramite giornali per l'appunto, Padoan che replica a Renzi: un rischio toccare le pensioni. Intervista al ministro: non possiamo far saltare i conti, però in realtà Renzi su questo ha insistito, su appunto questa flessibilità in uscita. La fotonotizia è dedicata all'arrivo di Francesco a Cuba e America, con il virgolettato: completate la vostra pace. Vi leggo le ultime tre domande che l'intervista a Padoan la trovate a pagina 2-3, quindi di Repubblica. Vi leggo le ultime due domande che Fabio Bogova fa al ministro Padoan. Una riguarda in particolare la privatizzazione delle poste, che non credo possa essere sfuggita a nessuno, è stata molto molto comunicata, diciamo così, su tutti i media. Arriva appunto la privatizzazione e quindi l'IPO, lo sbarco in borsa, e quindi chiede Bogo: adesso la Consob, che è l'autorità che vigila su tutto quello che avviene sulla borsa italiana, ha messo dei paletti sulla privatizzazione delle poste, facendo rilievi al prospetto di collocamento. L'operazione dovrebbe partire il 12 ottobre, mentre per la voluntary disclosure, di cui sicuramente i radioascoltatori hanno sentito tanto parlare sulle 24 ore anche durante questa ultima settimana, quindi mentre per la voluntary disclosure, che sta cominciando a crescere, i commercialisti chiedono più tempo per fare più operazioni, il che significa più incassi. E risponde Padoan: la privatizzazione di Poste è un'operazione non solo finanziaria, vogliamo un'azienda più moderna e aggressiva, sappiamo dei rilievi della Consob, le Poste stanno lavorando alacremente per rispondere ai quesiti, noi continuiamo a essere fiduciosi sul rispetto della tabella di marcia. Quindi l'IPO, conferma Padoan, dovrebbe essere il 12 ottobre, e sulla voluntary disclosure lasciamo le cose come stanno, quindi niente proroghe ai termini appunto su questa misura, che prevede, dà la possibilità ai contribuenti di volontariamente spiegare disclosure, quindi essere trasparenti sui capitali che stanno facendo rientrare dall'estero. Ancora un'altra domanda: tutto quello che avete messo in cantiere dovrà passare al vaglio di Bruxelles, i rapporti adesso sono più distesi che in passato, dice Fabio Bogo a Padoan, che risponde: i rapporti con il commissario Moscovici sono fruttuosi e cordiali, come quelli col vicepresidente Dombrovskis, che vedrò martedì. Abbiamo un dialogo continuo, li informiamo delle decisioni politiche e li aggiorniamo sul percorso, controllando assieme che tutto sia conforme alle regole europee. Questo ha instaurato un clima di fiducia che ci aiuta. Ultima domanda: la nostra reputazione migliora, poi ci sono episodi come quelli dei turisti lasciati fuori dal Colosseo e dai fori imperiali che invece ci fanno precipitare. Risponde Padoan: sono fermamente convinto che si possa conciliare il sacrosanto diritto dei lavoratori a fare assemblee e tutelare i propri interessi e al tempo stesso tutelare gli interessi dei cittadini e l'immagine dell'Italia. Facciamo una fatica enorme ogni giorno a costruire un'immagine migliore del nostro paese, poi rischiamo di rovinarla perché migliaia di persone tornano a casa con l'idea che l'Italia non funzioni. È un'idea sbagliata, ma gli abbiamo permesso di farsela e il danno è fatto. Sulla stampa invece l'apertura è proprio dedicata al Papa, il titolo, il messaggio di Francesco a Cuba: il mondo è assetato di pace, con un reportage di Andrea Tornelli, che è al seguito del Papa appunto a Cuba. La fotonotizia invece è una foto che forse molti di voi hanno visto anche nei telegiornali, è una bimba siriana che gattona letteralmente davanti a un plotone di agenti turchi in attesa di entrare con i genitori in Grecia. E quindi il titolo, con il reportage poi a pagina pagina 8, Ungheria e Croazia, nessuno vuole i profughi. L'ultima prima pagina, prima della pausa, L'Avvenire, che ovviamente titola sul viaggio di Francesco a Cuba, Cuba e Stati Uniti, così ci si riconcilia. Francesco parla di mondo assetato di pace. E anche in questo caso la fotonotizia è quella di questa piccola profuga siriana che appunto è stata fotografata proprio e sullo sfondo ci sono i poliziotti, in questo caso tra l'altro riservisti, con l'esercito, insomma, schierato, le forze dell'ordine, diremmo in Italia, proprio sullo sfondo in assetto da sommossa con i loro scudi e lei con il suo pigiamino che gattona davanti, ovviamente inconsapevole probabilmente di quello che sta succedendo. Ci sentiamo tra qualche minuto. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine, abbiamo visto molte fotonotizie, molti articoli dedicati al viaggio del Papa a Cuba e poi sappiamo che Francesco da Cuba poi raggiungerà gli Stati Uniti. Anche il giornale titola sul Papa, ma non tanto sul viaggio, davvero non ce ne traccia in prima pagina, ma invece su quella che viene definita la scelta di Francesco. Quattro profughi in casa del Papa e una famiglia di cristiani in fuga. Gian Michele Sin racconta chi sono appunto i primi quattro ospiti del Vaticano che sono scappati dalle persecuzioni jihadiste. Ricorderete che nelle settimane scorse Papa Francesco aveva invitato le parrocchie di tutta Italia, ma in fondo tutti noi italiani, ad accogliere dei profughi, e appunto in Vaticano, racconta Michele Sin, sono arrivati i primi quattro. Molto più polemica la copertina di Libero, che titola Comandante Fran-Che, c'è scritto appunto Che come Che Guevara. Il sommario è Cuba in festa per il Papa dei poveri che dirà messa con dietro la gigantografia di Che Guevara e poi partirà per gli Stati Uniti. Decisive saranno le parole su capitalismo e famiglia, temi che spaccano la Chiesa. L'unità ha proprio una specie di gigantografia, potremmo così dire così, metà della prima pagina dell'unità, che tra l'altro ha questo formato molto grande, è dedicata alla foto della bambina siriana che dicevamo prima, la bimba che gattona davanti ai poliziotti. C'è però il titolo è in realtà non è sull'immigrazione, quindi è un po' straniante perché non c'è nessuna spiegazione di questa, tranne una riga di spiegazione, ma molto in alto, che si fa quasi fatica a leggere, perché in realtà il titolo a cui è dedicato l'unità riguarda la manovra economica e comunque le scelte del governo sui temi economici. Il titolo è La svolta buona. Dal 2016 bonus da 230 a oltre 400 euro al mese per le famiglie povere con bambini a carico, meno tasse per 15 miliardi a nuclei familiari e imprese. Quindi siamo sempre in tema di appunto legge di stabilità e norme di cui per ora ci sono indiscrezioni, perché anche questa dell'unità, nonostante sia appunto il quotidiano che dovrebbe dare le notizie più certe sulle scelte del governo, queste per ora non sono ancora le linee guida, le norme, le previsioni del documento della legge di stabilità, ma sono soltanto di fatto indiscrezioni. C'è invece un sondaggio della SVG che poi trovate ampiamente analizzato alle pagine 2 e 3 dell'unità. Secondo questo sondaggio cresce la fiducia degli italiani. Ultime due copertine che vi segnalo: la Gazzetta dello Sport è dedicata al Milan con l'anticipo di ieri, Milan fior di bacca, i rossoneri ripartono, e poi naturalmente un grande spazio anche nel cosiddetto palchettone, che è quella parte della prima pagina, diciamo in gergo, subito sotto il nome della testata, Furia Rossa, Vettel che Paul, perché sapete che la Ferrari a Singapore alle 14 comincerà la diretta, è in pole position con Sebastian Vettel appunto. Il Manifesto invece titola sulle elezioni in Grecia, bivio a sinistra, la foto è di Tsipras, una foto vecchia, diciamo quando ha chiuso la campagna elettorale, quindi 2 giorni fa. Spiega il Manifesto, che poi approfondisce l'argomento alle pagine 2 e 3, forse il giornale che dedica più spazio al voto in Grecia insieme al Sole 24 Ore, come vedremo. Il sommario è: la Grecia torna al voto per la terza volta in meno di un anno, dopo l'accordo con i falchi di Bruxelles, la scissione di Siria Siriza per Tsipras è una doppia sfida, con la destra e per il futuro delle sinistre europee. Nei sondaggi sarebbe ancora il favorito, ma deve fare i conti con l'astensionismo di sinistra. E vi dicevo, molto spazio anche sul Sole 24 Ore, sulla questione greca, naturalmente con punti di vista e punti di analisi diversi, non tanto politici quanto proprio che riguardano i dati. E quindi il reportage di Vittorio Daroldi, il nostro collega che è inviato ad Atene da qualche giorno, il pezzo principale che trovate a pagina 7, la Grecia alle urne stanca e disincantata. C'è un sondaggio che è uno degli ultimi disponibili, la fonte è la University of Macedonia, e sarebbe che prevede un testa a testa tra Siriza e Neodimocrazia, che è appunto il partito di centrodestra. Tra l'altro ci sono tante altre analisi, per esempio quali saranno le priorità di questo autunno greco che arriverà subito dopo le elezioni, e le priorità, ci spiega ancora Vittorio Daroldi, è salvare le banche. Il bail-in dovrebbe arrivare entro l'anno per evitare che la ricapitalizzazione degli istituti greci pesi anche sui depositi non garantiti. L'analisi è di Paul Krugman, economista premio Nobel per l'economia, se solo la Grecia avesse fatto come la Polonia. Ma c'è anche un'altra analisi di Yannis Papantonio, che è stato ministro greco delle finanze, l'origine della crisi, le mancate privatizzazioni. E poi un'altra analisi di Vittorio Carlini, questa volta un po' su tutti i test elettorali, quello domani, infatti il titolo dell'articolo è Borse ai test elettorali del Sud Europa, perché oggi appunto si vota in Grecia e vedremo come reagiscono le borse domani, ma a fine novembre ci sono anche le elezioni generali in Spagna, e anche qui sappiamo che in quelle locali i partiti di sinistra come i movimenti di sinistra come Podemos hanno avuto molto successo, vedremo se lo replicheranno alle elezioni politiche. E poi c'è un altro voto importante il 4 ottobre in Portogallo, da qui appunto l'analisi di Vittorio Carlini, che spiega come gli analisti siano divisi, gli analisti finanziari, sui rischi delle elezioni dei cosiddetti PIGS. Cautela su Atene, timori sul voto di Barcellona, ma il clou appunto è Madrid a novembre. Per quanto riguarda paesi e rapporti con paesi diversi dall'Italia, la copertina di Imprese e Territori, dedicata a un'analisi di Laura Cavestri, l'Africa nuova frontiera per le PMI, è la regione più dinamica del mondo dopo l'Asia, con tassi di crescita negli ultimi anni superiori al 5%. Sapete che la Cina è al 7%, un tasso rivisto al ribasso che già è più basso appunto di quello che era stato previsto, ma che comunque resta 7 volte quello dell'Italia, ammesso che l'Italia riesca arrivare a questa crescita dell'1%. La fotografia nell'infografica appunto del commercio estero con l'area. Naturalmente ci sono tantissime differenze tra i vari paesi dell'Africa e anche all'interno dei paesi. Ci sono due esempi fatti sempre da Laura Cavesti per farci capire. Un caso, per esempio, la Pavan, che è un'azienda di Padova che fa pastifici per l'Angola, oppure la piccola romagnola Frio Star, che si occupa di refrigerazione high-tech e al posto dei cinesi. Perché questo al posto dei cinesi? Perché appunto sappiamo che negli ultimi 10, forse anche 15 anni è stata la Cina quella che si è mossa di più per, diciamo così, colonizzare economicamente l'Africa, o comunque stabilire dei rapporti privilegiati con l'Africa. La ragione principale è che la Cina ha bisogno di materie prime dall'Africa, ma ha approfittato naturalmente anche per costruire infrastrutture e soprattutto stabilire tanti rapporti commerciali con l'Africa di tantissimi tipi diversi, che vanno ben oltre la fornitura di materie prime. Dal manifesto, alla pagina interna del manifesto, vi segnalo un articolo che non ho, una notizia che non ho trovato sugli altri giornali, e che è quella che nella notte è stata approvata una legge in Giappone che, titola il manifesto, prevede che ora il Giappone non è più in pace. Il Giappone era un paese che dopo la Seconda Guerra Mondiale nella sua Costituzione aveva messo il divieto di partecipare a qualunque tipo di missione militare all'estero, e invece appunto con questo cambiamento fortemente voluto dal premier Abe c'è l'ok alle missioni all'estero. Cioè, il voto non è stato indolore all'interno dell'aula, c'è stata quella che il manifesto definisce come una bagarre in aula contro la forzatura. I pacifisti, ci sono già state molte manifestazioni e probabilmente ce ne saranno altre dei pacifisti. Il fatto dedica invece un approfondimento a queste nuove norme che prevedono il divieto di fumare in automobile se in automobile ci sono dei minori. Viene definito un nuovo modo di applicare la cosiddetta tolleranza zero. Il manifesto, oltre a spiegare quali sono i dettagli di questo nuovo provvedimento, ha chiesto tre pareri alla scrittrice Caterina Soffici, che dice: non è così che smetteranno, ma impedirlo alla guida è giusto. Pietrangelo Buttafuoco, che invece dice: non c'è nulla di più triste del proibizionismo forzato. Infine Andrea Scanzi, che dice: un divieto sacrosanto, ma non scordate il fumo dell'Ilva. In generale, appunto, tutti i danni alla salute fatti non solo dal fumo attivo o passivo, ma anche da, appunto, tutte quelle aziende dove si sono negli anni, dove chi ci lavora, ma anche chi viveva vicino, ha respirato fumi tossici. L'ultima segnalazione prima della pausa per il traffico: mi piacerebbe ci fosse qui Alessandro Milan con la sua conta delle settimane decisive per l'abolizione delle province, perché Sergio Rizzo ci racconta sul Corriere della Sera: così le province quasi abolite assumono e aumentano le tasse. Nonostante la riforma sono rimaste in piedi persino le società partecipate. Ma ci lasciamo un attimo per la pausa sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine interne dei giornali, abbiamo seguito tutti questa polemica sulla chiusura del Colosseo per assemblea sindacale e con i provvedimenti annunciati dal governo per trasformare le aperture dei musei o comunque i beni culturali italiani in servizi pubblici e ai quali quindi si applicano tutte le norme. Vedremo come andrà a finire, ma vi segnalo su questo argomento un'intervista con alcune dichiarazioni forse un po' a sorpresa di Diego Della Valle, che è fondatore e presidente e amministratore delegato del gruppo TOZ, che sapete ha finanziato con 25 milioni di euro il restauro del Colosseo. E Della Valle dice a Paolo Conti: patrimonio aperto ma con i dipendenti necessari, investono le aziende pubbliche. Chiede Paolo Conti: Della Valle, lei ha destinato 25 milioni al restauro del Colosseo, cosa ha pensato della polemica per la chiusura di 3 ore per un'assemblea sindacale? E Della Valle risponde: non è la prima volta, ho pensato a un danno all'immagine del paese, ma chi ha deciso per l'assemblea lo ha fatto forse in buona fede, non calcolando che basta la parola Colosseo per catturare l'attenzione di chiunque sia connesso a un telefono, sulla rete o segua la TV. E chiede ancora Conti: lei parla di buona fede, quindi pensa che le richieste sindacali vadano ascoltate? I dipendenti del Colosseo sono 27, suddivisi in 3 turni con 6.000 visitatori al giorno, e c'era anche il nodo di fondi accessori del 2014 e 2015 ancora da pagare, saldati solo ieri dopo la protesta. E quindi Della Valle risponde: il Colosseo e tutto il patrimonio italiano va aperto con un numero adeguato di dipendenti. Chi lavora ha diritto a orari corretti, deve essere pagato in modo equo e gli arretrati vanno saldati. Un dipendente con lo stipendio ci mangia, non compra ville. E se è vero che c'è un danno d'immagine al paese con una chiusura del genere, è anche vero che i beni culturali italiani vanno mostrati agli italiani e agli stranieri nelle migliori condizioni possibili. Mi auguro che il governo, che il ministro Dario Franceschini, facciano presto il punto sui dipendenti necessari ai musei. Se c'è bisogno di personale, occorre assumere. Se il governo pensa di puntare sulla cultura, deve crederci fino in fondo. Ma passiamo allora appunto ai supplementi culturali, sempre troppo poco tempo per segnalarli, e cominciamo naturalmente dal nostro, dalla Domenica del Sole 24 Ore, e vi segnalo, invertendo l'ordine della segnalazione oggi, prima di tutto la rubrica, il memorandum del nostro direttore Roberto Napoletano, nostro del Sole 24 Ore e di Radio 24, perché si intitola proprio L'altra domenica di Radio 24 e presenta un po' questo nuovo palinsesto a cui penso cominciate ad abituarvi, che riguarda soprattutto il weekend, e racconta anche un aneddoto di come, quando Elia Zamboni, vice direttore, storico vice direttore del Sole 24 Ore e poi naturalmente fondatore e direttore di Radio 24, incontrò Roberto Napoletano, che all'epoca era invece il responsabile di tutta l'economia del Sole 24 Ore, e gli raccontò di questo progetto. Insieme parlarono del nome e di come appunto quello più adatto sarebbe stato Radio 24, con questo numero 24, e poi la presentazione appunto del palinsesto, in particolare di quello della domenica. E passiamo invece, poi torniamo alla prima pagina, ma sempre con un'altra rubrica, la rubrica di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Nani e parte da una citazione di Stanisław Lech, che è uno scrittore polacco. La citazione è questa: frequentare i nani deforma la spina dorsale. E scrive Ravasi, la battuta è politicamente scorretta, ma la possiamo scusare perché appartiene ai pensieri spettinati dello scrittore polacco Stanisław Lech, morto a Varsavia nel 1966, quando, aggiungo io, sicuramente non era proprio ancora entrata nel linguaggio la parola politicamente corretto o scorretto. Pensieri provocatori suoi che, al di là della formulazione, colpiscono nel segno con il loro valore simbolico etico. E qui la metafora è chiara. Già San Paolo, citando Menandro, ammoniva i corinzi che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Più popolarmente si dice che chi va col lupo impara a ululare e chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Lech, però, evoca una particolare degenerazione comune ai nostri giorni. Ci adattiamo sempre di più al basso, al volgare, alla stupidità. Ci troviamo così curvi costantemente su immondizie di parole e di idee, su escrementi di linguaggi, su scarti e cascami di pensieri. La spina dorsale dell'anima si fa così curva da non essere più in grado di levarsi verso le stelle e il cielo della morale e della verità. Ma diciamo, la copertina vera e propria, il pezzo di copertina, è dedicato a un libro, Ritorno a Confucio, la Cina oggi tra tradizione e mercato, di Maurizio Scarpari, che verrà presentato il 29 settembre a Bologna. Il titolo è Confucio è tornato, la Cina post-maoista di Xi Jinping, l'attuale presidente, ha rilanciato l'antico sistema filosofico-politico che resse quel mondo per millenni. Il mercato e i valori tradizionali si uniscono in una concezione della cultura come soft power. E poi vi segnalo dalla pagina 25 della Domenica questo articolo di Giorgio Bava Navaretti, che prende spunto da due studi di economisti. Il titolo del pezzo è Lo scarica è immigrato. Perché? Perché analizzando questi studi Giorgio Bava Navaretti ci racconta appunto la soluzione suggerita dagli economisti, la compensazione monetaria tra i paesi che ospitano i profughi e chi non li accoglie. Un'altra pagina dedicata in questo caso a due libri. Da una parte un libro di Natalia Aspesi, che verrà presentato, che è stata ospite, è stata tra le ospiti del Festival Talento delle Donne che si chiude oggi a Genova. Il libro che Eliana Di Caro recensisce si intitola Delle donne non si sa niente, e appunto è un racconto delle donne di oggi, di ieri, con l'esperienza di questa giornalista scrittrice che ha anche tenuto tanti poste del cuore, quindi c'è un po' di molte opinioni, ma anche basate appunto sulla sua conoscenza diretta o indiretta di tante altre donne. Un altro articolo molto interessante si intitola La rinascita di Librino. Librino è un quartiere di Catania, ma in realtà il tema è molto più ampio e riguarda quello che Renzo Piano definisce il rammendo delle periferie, già il terzo progetto dell'architetto, il sogno urbanistico che si è infranto in quel quartiere su malavita e abusivismo, ma ora Piano con il suo team ridisegna l'area. È un progetto, questo del rammendo delle periferie, che proprio Piano aveva lanciato sulle pagine del Domenicale nel gennaio del 2014. Tempo ancora per un paio di segnalazioni. Dall'Avvenire un bellissimo articolo che si intitola La favela scoprì il pianoforte. Tra l'altro proprio ieri credo Valentina Furlanetto nella sua trasmissione ha raccontato di quel musicista che suona nei campi profughi. Qui invece questa pianista, una giovane musicista venezuelana che invece ha suonato appunto il pianoforte nelle favelas fra i ragazzi più poveri di Rio, e racconta che dopo quell'esperienza è cambiato tutto. La lettura del Corriere della Sera, tempo proprio solo per un paio di segnalazioni. La copertina, come sempre, affidata a un artista questa settimana, è Damian Ortega, ma dalle prime pagine molto bello questa analisi di Mauro Bonazzi sul grande equivoco dell'amore platonico. Il filosofo Platone non teorizzava, secondo appunto questa reinterpretazione, un sentimento privo di impulsi passionali, no? Sappiamo, diciamo tutti, l'amore platonico quando appunto non c'è passione, ma un desiderio di bellezza che dà un senso alle nostre vite per opporci al potere distruttivo della morte. Ateniesi e pubblicitari hanno visto bene. Ultimissima segnalazione dalla copertina di R Club di Repubblica, il supplemento, la parte di Repubblica dedicata alla cultura, alla Domenica, con uno scritto di Daniel Pennac, che è uno scrittore francese di grandissimo successo, ma anche un ex insegnante. Daniel Pennac, buona scuola, con il punto esclamativo. Era l'ultima segnalazione. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.